Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 10 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo della finanziaria, o meglio della legge di stabilità, come si chiama, adesso, perché vi sono alcune modifiche. Poi da lunedì dovrebbe arrivare il via libera o le osservazioni, ma quelle definitive da parte dell'Europa. Vi sono alcune novità, al di là del giudizio finale che arriverà appunto da Bruxelles. Vi sono alcune novità, fonti europee definiscono e sottolineano che vi siano aperture di credito nei confronti dell'Italia, anche se il tema del debito troppo alto c'è. E questo mentre si continua anche botta e risposta sullo sciopero annunciato dai sindacati, quello del 12 dicembre, CGIL e UIL. Sciopero generale, anche se la UIL oggi ha mostrato una certa apertura, e la CISL invece farà lo sciopero unitario solo il primo dicembre. Confermate anche alcune cose, una a cui teniamo moltissimo perché ci era sembrato, abbiamo fatto una modesta piccola campagna a favore del ripristino del fondo per le famiglie che hanno un figlio o un parente non autosufficiente. Confermato che il fondo non solo non viene ridotto a 250 milioni da 350, ma viene portato a 400 milioni. Ci sarà però da battagliare anche il prossimo anno, perché in realtà la notizia meno bella è che il fondo resta a 250 milioni per il 2016. Però intanto un anno per volta, qui si naviga veramente a vista. Il fondo passa a 400 milioni per la non autosufficienza, compresa la SLA, ma non solo per la SLA. I 150 milioni in più arrivano dal fondo per la famiglia, che scende da 300 milioni a 150 milioni. Ma poi fondo per le emergenze, per il Made in Italy, adesso vi arriveremo con calma. Dopodiché commenteremo la borsa che oggi è come indici, sostanzialmente Milano non se la passa male, più 0,15%, mentre Francoforte è invariata, ma Parigi perde lo 0,90%, Londra lo 0,36%, l'America è invariata. Poi però dentro i titoli ci sono dei cali anche abbastanza significativi: il Banco Popolare perde il 3,70%, la Pop Emilia Romagna il 3,60%, UbiBanca meno 3,20%, Monte dei Paschi meno 2,70%, Pop Milano meno 2,40%, quindi negative tutte le banche, quasi tutte, o meglio, anche Intesa San Paolo perde l'1,60% e Unicredit l'1,70%. Poi c'è Enel che cede il 2,40% e Buzzi Unicem l'1,90%, Enel Green Power meno 1,80%. Ci sono stati alcuni dati che oggi hanno un po' zavorrato le borse: l'indice PMI della Euro e della Cina, risultati inferiori alle attese, e da qui partiamo. L'altro tema di cui ci occuperemo è la vicenda Telecom Italia. Domani c'è un consiglio di amministrazione importante in cui dovranno essere chiariti gli obiettivi sia sul fronte internazionale, quindi Team Brasil, l'ipotesi di joint venture con il gruppo brasiliano Oi, sia sul fronte nazionale, l'offerta per Metro Web, quindi chi gestisce la fibra a Milano e a Genova. Ne parleremo con il presidente di Telecom Italia, Giuseppe Recchi, tra circa mezz'ora. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Economia internazionale, dicevamo, l'indice HSBC sulle PMI, quindi sarebbe l'andamento, l'indice che misura le risposte dei managers che hanno che si occupano degli acquisti, sarebbe Purchasing Managers Index, non c'entra niente con le PMI intese come piccole e medie imprese, è calato al livello più basso, secondo la stima, in Cina, chiaramente, è calato a 50 punti. I 50 punti segnano la differenza tra espansione economica e contrazione economica. Questo per quello che riguarda la Cina. Un indice debole si è registrato anche in Europa, ma oggi Draghi, Mario Draghi, è tornato sul ruolo della Banca Centrale Europea, che dice la Banca Centrale Europea era e rimane determinata a proteggere l'euro. E ancora, questo durante la cerimonia inaugurale della sorveglianza sulle banche che sono passate sotto la Banca Centrale Europea. Sono 140 banche europee, le principali, che non sono più vigilate dalle rispettive banche centrali nazionali, ma dalla Banca Centrale Europea, con un metodo che abbiamo già spiegato, chiamiamolo metodo Cipro se vogliamo. In caso di bail-in, non bail-in alla genovese, ma bail-in è l'espressione che vanno gli azionisti in caso di un fallimento della banca, perché con il nuovo sistema sostanzialmente se la banca va in difficoltà e va in crack, non viene automaticamente, diciamo così, salvata dallo Stato o dall'Europa. Prima vengono chiamati a contribuire gli azionisti, gli obbligazionisti e gli obbligazionisti anche di secondo livello. Poi a quel punto si vede se organizzare, diciamo, un'accordata di salvataggio. Questo è il cosiddetto bail-in, che è la prima fase. Poi c'è il bail-out, quindi se la banca va salvata con soldi pubblici. Mario Draghi ha detto che l'area euro deve pensare anche a un'unione economica dopo il settore bancario, ora tocca alle politiche di bilancio e ai mercati dei capitali. Nel giorno in cui Atene ha risposto picche alle richieste arrivate dalla Troica, cioè Banca Centrale Europea, Fondo Monetario e Commissione Europea e Unione Europea, lo ha fatto il ministro greco delle finanze Arduvelis. La Troica chiedeva sostanzialmente modifiche al sistema di previdenza sociale e alle norme sui licenziamenti. Voleva ridurre il rischio era che venissero ridotte ulteriormente le pensioni o aumentata l'età pensionistica. Il governo lo ha escluso cambiamenti della legge attualmente in vigore che regola e anche della legge che regola i licenziamenti collettivi e le modalità con cui vengono adottati. Poi c'è botta e risposta tra Atene e la Troica, perché secondo la Troica nel bilancio 2015 di Atene mancano 3,6 miliardi di euro, secondo il governo di Atene invece non esisterebbe alcun buco. Nel frattempo anche in Grecia si va a scioperare il 27 novembre per protestare contro i licenziamenti nel settore pubblico e la possibilità di nuovi tagli salariali. Faccio notare, lo sciopero è un diritto e uno lo può applicare quando vuole, però faccio notare che mentre i sindacati, che uno possa essere d'accordo o no, abbiamo molte volte raccontato quale fosse il peso e i privilegi, fossero prima dello scoppio della crisi del settore pubblico in Grecia, ma anche l'altissimo tasso di evasione fiscale da far impallidire perfino quella italiana che c'è in Grecia, però qui i sindacati protestano per misure effettive, cioè il licenziamento nel settore pubblico e la possibilità di nuovi tagli salariali. Lo sciopero, perché vedo molti messaggi su questo, indetto da CGIL e UIL, assolutamente nel loro diritto, ci mancherebbe, però è uno sciopero preventivo, è uno sciopero su due leggi, la legge di stabilità e la riforma del mercato del lavoro, che devono ancora andare in Parlamento. Uno poteva immaginare uno sciopero, insomma, quando si fosse capito esattamente, soprattutto sul Jobs Act, qual è il perimetro del reintegro anche sui motivi per i licenziamenti di carattere disciplinare. Invece si fa lo sciopero preventivo. Veniamo all'Italia. Già i nostri GR24 hanno ricordato come si sia chiusa da parte della Procura di Torino l'inchiesta Ethernet Bis, in cui è indagato l'imprenditore svizzero Schmid Haney, al quale è contestato omicidio volontario e continuato per un totale di 263 vittime. Nel frattempo la Cassazione in una nota ha chiarito la sentenza di ieri. L'oggetto del processo era esclusivamente l'esistenza o meno del reato di disastro ambientale, concluso nel 1986 con la chiusura degli stabilimenti, e quindi un reato prescritto. La Corte non si è occupata dei singoli episodi di morti e di patologie sopravvenute. I giudici d'appello invece avevano motivato la condanna a 18 anni per Schmidt-Leini perché il disastro era considerato ancora in atto. E su questo è intervenuto anche il premier Matteo Renzi, perché dice: in una vicenda come Eternit o non è un reato, o se è un reato ma prescritto vuol dire che bisogna cambiare le regole del gioco, perché non ci deve essere l'incubo della prescrizione. Le domande di giustizia, ha continuato Renzi, non vengono meno nel tempo e quindi i processi devono essere più veloci, non si può cedere davanti alla prescrizione. La sentenza è entrata anche nel dibattito parlamentare. L'esponente del PD Zanda ha detto che bisogna mettere mano alle regole sulla prescrizione. Bruni ha detto di Forza Italia sì, ma non in maniera speculare. A Casal Monferrato si è proclamato lutto cittadino e sulla riforma della prescrizione il governo ha messo a punto un testo che risulta approvato nel Consiglio dei Ministri dello scorso 29 agosto. Però del provvedimento non se ne ha più traccia perché non risulta ancora arrivato in Parlamento. Non è un problema fisico di camminatori, è un problema di calendario parlamentare. E l'Associazione Nazionale Magistrati, per voce del suo presidente Rodolfo Sabelli, ha detto: i magistrati hanno sollevato da anni il problema della prescrizione, e alla luce anche del dibattito pubblico che si è sviluppato sulla vicenda Eternit e che ha visto anche l'intervento del Presidente del Consiglio. Dicevamo però dell'Europa e delle borse che adesso, Milano continua a fare 0,22%, indebolite dai dati sulla Cina e anche da un clima di fiducia molto basso in tutta l'area europea. Al tema della fiducia sono dedicati 100 secondi di oggi, come sempre fatti e vengono trasmessi anche da Radio Dimensione Suono e realizzati dai vice direttori del Sole 24 Ore. Oggi è la volta di Alessandro Platerotti. Monte dei Paschi di Siena, banca dal 1472, vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Platerotti. I soldi non sono tutto, o almeno questo è quello che sembra dirci l'economia europea. I nuovi dati sulla fiducia nell'eurozona puntano infatti ad una crescita asfittica non soltanto per l'Italia, che sappiamo essere in crisi, ma anche per i paesi più forti come la Francia, la Germania e i paesi dell'Europa centrale. Che cosa sta succedendo sostanzialmente? Che dopo 2.000 miliardi di liquidità dati dalla Banca Centrale Europea al sistema bancario, ancora i soldi non arrivano all'economia. Questo che cosa significa? Significa probabilmente che dovremo, noi come paese, ma in generale tutta la fascia più debole dell'Europa, cominciare a cambiare idea su che cosa serva realmente per far ripartire il lavoro, l'occupazione e le nostre economie. Non bastano certamente i soldi, e questo è il significato, perché servono politiche industriali, servono politiche serie per stimolare il lavoro. Dare oggi soltanto liquidità alle banche significa soltanto gonfiare delle bolle speculative in classi di attività finanziarie che poco o nulla hanno a che fare con l'impresa, con il lavoro, con il commercio e in generale con la ripresa dei consumi. I soldi dunque non sono tutto. Che cosa serve? Serve leadership politica e soprattutto idee che permettano di trovare nuovo lavoro e soprattutto fare nuova impresa. Questo quindi il commento di Alessandro Platerotti. Avete ragione, lo dico agli ascoltatori, abbiamo avuto un problema nel sistema, infatti anche a me non risultavano alcune cose nel sistema di aggiornamento degli indici, non dei titoli, quindi confermo tutte le variazioni percentuali dei titoli. Invece sull'indice il dato è nettamente diverso, adesso perde lo 0,90%, Milano perdeva lo 0,70%, prima stiamo ricostruendo la serie storica, chiedo venia, e invece confermo i cali sui titoli bancari che prima ricordavamo, così come confermo che Saipem è positiva di un 3%, Prismian più 1,30%, Tenaris più 1,20%, 0,70% Ferragamo, 0,60% Iux e anche Campari come rialzo. Chiedo scusa a nome, dipende dalla macchina, però insomma chiaramente le scuse le porgo io, non le porge la macchina. Andiamo avanti con le altre notizie che riguardano l'Italia in questo caso. Sulla ST di Terni non ci sono grosse novità. L'amministratore delegato Lucia Morselli ha confermato l'intenzione di mantenere l'integrità del sito produttivo, ha escluso qualunque ipotesi di smantellamento degli impianti. Per ThyssenKrupp si tratterebbe di un incontro positivo in un giorno in cui ha chiuso anche un bilancio positivo l'esercizio 2013-2014. È inutile per la prima volta dopo 3 anni di perdite per ThyssenKrupp. Risultato inutile per 210 milioni di euro contro 1 miliardo e 440 milioni di rosso dell'anno prima. Mentre per quello che riguarda altre notizie, oggi sono arrivati i dati sugli ordinativi industriali a settembre, meno 1,5% sul mese, meno 0,4% sull'anno, e anche a settembre il fatturato dell'industria continua a calare, meno 2,2% rispetto a settembre. Rispetto ad agosto siamo a meno 0,4%, c'è un calo ulteriore sul mercato interno e un calo dell'1,4% anche su quello estero. Però nonostante queste difficoltà, noi ricordiamo spesso che la produzione industriale italiana sia praticamente sotto di un 25% ancora rispetto ai livelli pre-crisi, e l'immagine che ci viene più facile è quella di un capannone su 4 che ha chiuso. È ovvio che non è così, è ovvio che molte imprese hanno ridimensionato la loro attività, però se noi immaginiamo un quarto di produzione industriale in meno, prendiamo il paesaggio economico italiano, immaginiamo che scompaia come in un Photoshop un quarto di tutti i capannoni delle aree industriali, artigiane, commerciali che vediamo. Dicevo, nonostante questo però e nonostante una disoccupazione giovanile a record storico, le imprese continuano a far fatica in molti casi a trovare figure professionali, e questo è veramente un problema anche di mismatching, come dicono gli inglesi, di mancato incontro tra domanda e offerta. L'indagine Excelsior di Unioncamere, come ogni anno diffusa a Job Orienta, che è il salone internazionale sull'orientamento scuola e formazione, ha mostrato che vi sono ancora moltissime domande delle imprese che vanno in evase. Sentiamo quali sono le caratteristiche dal dirigente Domenico di Unioncamere, Domenico Mauriello, al microfono la nostra Maria Piera Ceci. Essenzialmente alcune professioni legate alla filiera delle professioni digitali, delle ICT, ma anche più in generale dei vari indirizzi di ingegneria, sono considerate difficili da reperire da molti degli imprenditori della Lombardia. Quest'anno abbiamo messo in evidenza una curiosità qui in Veneto, che è una richiesta particolare. Stiamo parlando però di numeri decisamente più contenuti di quelle delle professioni digitali in Lombardia, per quello che riguarda alcune professioni della filiera della cultura, della musica, dello spettacolo, dell'opera. Ci sono delle professioni introvabili anche in regioni diverse da quelle che ho menzionato. Ad esempio, sempre in Veneto abbiamo alcune professioni legate all'edilizia sostenibile, ad esempio, che stanno prendendo sempre più piede, ma per le quali le imprese appunto in Veneto e in Trentino mostrano qualche difficoltà a coprirle. Però c'è anche un desiderio da parte ad esempio delle imprese del Lazio di incrementare l'offerta qualitativa di servizi turistici, ma molto spesso non trovano figure adeguate a questo scopo. Ancora due notizie. Il mercato del mattone, segnale di svolta per il mercato immobiliare. Nel terzo trimestre del 2014 il settore ha registrato un aumento, stiamo parlando delle compravendite chiaramente, non dei prezzi, del 3,6% rispetto a un anno prima, con 206.000 transazioni, sia sul mercato delle abitazioni più 4% che dei negozi più 9% e anche i capannoni più 1,6%, male solo gli uffici meno 2%. Ripeto, non è il valore immobiliare ma il numero di compravendite. E chiudiamo, prima del metodo della pubblicità, con la vicenda Rai. Uno la può pensare come vuole, però è singolare che un consiglio di amministrazione voti contro il suo azionista di riferimento, che è il governo. Quantomeno questo ce lo fate dire. Perché? Perché ieri il consiglio di amministrazione della Rai ha deciso di ricorrere contro il taglio di 150 milioni di euro al bilancio Rai voluto dal governo con il decreto IRPEF la scorsa primavera. e il via libera, cioè il fatto che il consiglio di amministrazione ricorra contro la decisione del suo azionista, ha spaccato il consiglio di amministrazione stesso, ha spinto alle dimissioni tra gli altri anche il consigliere Luisa Tudini e ha messo in minoranza il direttore generale Luigi Gubitosi, che ha definito l'atto, cioè il ricorso, come inopportuno. Luisa Tudini, presidente delle Poste, che aveva già annunciato che si sarebbe dimessa vista la carica di presidente delle Poste, ha spiegato le ragioni di questo anticipo al nostro Simone Spezia a Effetto Giorno. Nel momento in cui sono stata indicata a presidente delle Poste, aveva annunciato che mi sarei dimessa entro l'autunno per concludere il percorso di quotazione RAI e l'anno imprenditoriale, se vuole, della RAI. Immaginavo quindi che sarei arrivata alla fine dell'autunno, ma quello che è successo ieri mi ha imposto, mi lasci dire, per mia educazione imprenditoriale, non saprei come definirlo, che non si vota contro il proprio azionista che ti chiede di risparmiare. E io non mi sono più sentita così nella fiducia con il resto del consesso consigliare di rimanere all'interno di un consiglio nel momento in cui si vota e si fa un ricorso contro il proprio azionista che ti indica una strada per risparmiare. No, pensavamo di aver visto tutto, ma insomma un consiglio di amministrazione che vota contro il suo azionista, che indica, uno può essere d'accordo o meno, ma l'azionista ha anche il dovere di indicare come risparmiare, non è che la RAI proprio sia un esempio di gestione eccellente, è stranissimo. Immaginate cosa capiterebbe nel mondo privato, in cui un azionista di riferimento dà un'indicazione su un piano strategico e il CDA gli vota contro, dovrebbe dimettersi un secondo dopo, quantomeno, perché anzi non gli puoi neanche votare contro, ti dimetti in come contrarietà alle indicazioni arrivate dall'azionista, ma ti dimetti, non è che resti nel consiglio di amministrazione. Allora, vedo molti messaggi sul tema dello sciopero. Mi sono permesso di dire che ancora dobbiamo capire come uscirà la legge sul Jobs Act e come cambierà la legge di stabilità. Poi uno ha tutti i diritti di scioperare anche in maniera preventiva. Sul pubblico impiego è vero che c'è il blocco del rinnovo contrattuale. Faccio notare però che il pubblico impiego, allora, siamo in una situazione di crisi da 7 anni. Il dato sulla produzione industriale lo ricordavo prima. Il pubblico impiego, che pure ha avuto il blocco del turnover, che pure ha avuto il blocco degli stipendi, è vero, e noi da sempre ci battiamo perché alcune figure del pubblico impiego, non i dirigenti, non quelli ministeriali, non i dirigenti di enti locali e quant'altro, ma alcune figure abbiano un aumento di stipendio, e mi riferisco agli insegnanti in maniera premiante, però alle forze dell'ordine e quant'altro. Però faccio notare che il pubblico impiego almeno non ha conosciuto l'emorragia di posti di lavoro che ha conosciuto il settore privato. Mi rendo conto che sia difficile dire mal comune mezzo gaudio, però tutta la disoccupazione record si è scaricata sul settore privato e nello specifico sui giovani e le donne, ma ancora di più i giovani. Non si è scaricata sul settore pubblico la disoccupazione record, quindi almeno riconoscere questo, non dico che sia sbagliato scioperare, non sta a me dirlo, ma riconoscere che in questo momento il pubblico impiego non ha conosciuto il salasso in termini occupazionali che ha ottenuto invece e purtroppo il settore privato. Tutto qua. Comunque, meteo, pubblicità e poi partiamo dalla legge di stabilità che lunedì va all'esame definitivo della Commissione Europea. Invidio molto quelli che passano il tempo a organizzare gli scioperi, mi riferisco non tanto alle lavoratrici e ai lavoratori, ma agli organizzatori, ai sindacalisti. Sa che ci sono stati più scioperi in queste settimane che contro tutti gli altri governi. Io non mi preoccupo tanto di far scioperare le persone, ma è quella di cercare di farle lavorare, anziché passare il tempo a inventarsi ragioni per fare gli scioperi. Io mi preoccupo di cercare di trovare posti di lavoro. Chi vuol fare sciopero, profondo rispetto, va benissimo e nessuno deve fare polemica, perché lo sciopero è un diritto costituzionale garantito e noi rispetteremo sempre e comunque non soltanto la Costituzione ma il diritto dei cittadini. Però il governo in questo momento sta cercando di mettere in piedi tutte le azioni necessarie a ripartire con l'occupazione e con il lavoro. Così il premier Matteo Renzi sullo sciopero. Vedo molti messaggi sul pubblico impiego. Ho solo detto che il blocco del turnover c'è stato e anche il rinnovo contrattuale bloccato, ma a differenza del settore privato lì non si è scaricata disoccupazione, cioè licenziamenti, cassa integrazione io non ne ho visti, scusatemi se non li ho visti. Sulla RAI non voglio tornare, per quello che riguarda i sindacati va bene, visto che il primo dicembre si sciopera per il pubblico impiego, magari nello sciopero mettono in evidenza bene che vogliono il merito e quindi vogliono gli aumenti per gli insegnanti, per i poliziotti, per i dipendenti dei ministeri bravi, che vogliono ridurre gli stipendi dei dirigenti pubblici, proprio voglio vedere lo slogan, siccome noi abbiamo i dirigenti pubblici più pagati d'Europa e non mi sembra che abbiamo la miglior pubblica amministrazione d'Europa, tutte le statistiche ci dicono, abbiamo fatto decine di puntate su questo, immagino che la manifestazione dei sindacati del primo dicembre prenderà di mira i dirigenti pubblici e il merito, e quindi chiederà più merito per i quadri, per gli impiegati, per i dirigenti, a costo anche di penalizzare, perché se uno lo premi l'altro lo devi punire, tra virgolette, come funziona nel mondo del privato, e quindi merito vuol dire saper scegliere e discriminare. Se lo sciopero è su questo, è un passo in avanti. Dino Pesole del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, eccomi. Allora, Bruxelles lunedì, adesso della legge di stabilità è passato l'emendamento, abbiamo già raccontato dei soldi per i non autosufficienti, è passato anche l'emendamento che porta l'IVA sugli ebook dal 22 al 4% come per i libri cartacei. Il vice ministro Morando ha detto che stanno lavorando anche per un intervento sul canone della RAI, è passato anche un fondo di 220 milioni di euro in tre anni per realizzare il piano straordinario per la promozione del Made in Italy e un fondo di 60 milioni di euro aggiuntivi per le emergenze nazionali, immagino appunto emergenze come le calamità naturali. Passerà lunedì a Bruxelles o no? Ma allora, dalle ultimissime indicazioni che si hanno da Bruxelles, l'orientamento sembra essere proprio quello di non chiedere all'Italia un nuovo sforzo aggiuntivo sul deficit, e dunque questa già è una buona notizia e fa capire che c'è un'inversione di atteggiamento della nuova Commissione, che peraltro si è messo in moto lo scorso fine settimana in Australia, a Brisbane, al termine di un o durante probabilmente l'incontro tra Renzi e Juncker. Quindi non ci saranno richieste di interventi aggiuntivi, ma ci sarà un'attenzione e quindi un'enfasi molto forte sul fronte delle riforme. Come dire, potete deviare, come facciamo già, dal percorso di risanamento del deficit, intendo quello strutturale, quello che conta per Bruxelles, però dovete dimostrare che siete in grado di portare a casa le riforme. Portarle a casa vuol dire non solo farle approvare dal Parlamento, perché sappiamo che c'è un pregiudizio diffuso in Europa, a Bruxelles, non solo sulla capacità effettiva del nostro Paese di realizzarle, poi le riforme che fa il Parlamento, e quindi ci sarà un nuovo check, quindi in primavera, in cui si capirà quello che il Governo nel frattempo avrà realizzato. E il Governo si appresta a scrivere una nuova lettera, cosa che avverrà probabilmente in serata o al massimo domani, in cui verrà indicato il cronoprogramma delle riforme strutturali, quelle già attuate, quelle in via di attuazione e soprattutto la delega sul lavoro, con la rassicurazione formale questa volta che il convoglio si metterà in moto il 1 gennaio. Dovrebbe bastare al momento per evitare bocciature o lettere di richiamo. Sì, certo, lettere di richiamo. No, è importante questo perché in questi giorni siamo molto occupati sugli emendamenti, ma resta sempre l'esame europeo. Grazie a Dino Pesola del Sole 24 Ore. Adesso mando il traffico, poi stiamo aspettando che ci raggiunga in collegamento il presidente di Telecom Italia Giuseppe Recchi, domani c'è un consiglio di amministrazione importante, magari diamo subito anche la borsa dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. ...17:47 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, rapidamente la borsa, perché poi vorrei iniziare a intervistare Recchi. Meno 0,88% Milano, oggi dovete accontentarvi di me, meno 0,75% Parigi, più 0,12 Francoforte, meno 0,30 Londra, perché lo dicevamo in apertura, la flessione dovuta ai dati deludenti dell'indice PMI arrivato anche dalla Cina, l'America continua a viaggiare sostanzialmente sulla parità. Tra i titoli segnalo Saipem più 2,80%, che è stata in parte galvanizzata dall'andamento a Parigi della concorrente CGG e Veritas più 22%, a sua volta spinta dall'offerta di acquisto del gruppo Technip. Chiude in ribasso invece l'ENI 2,11% dopo che sono emerse indiscrezioni secondo cui il gruppo non dovrebbe rispettare o potrebbe non rispettare i target di riduzione del debito che si era prefisso per fine anno. Ancora negative oggi tutte le banche: il Banco Popolare meno 3,40, Pop Emilia Romagna meno 3,30, Ubibanca meno 2,50, Pop Milano meno 2,5, Monte dei Paschi meno 2,15 e anche Unicredit perde l'1,50%, Telecom meno 1%. E allora parliamo proprio di telecomunicazioni e di Telecom. Parliamo di telecomunicazioni, ma parliamo anche e soprattutto del gruppo Telecom Italia. Domani infatti c'è un consiglio di amministrazione importante, sul tavolo ci sono due dossier, uno molto italiano e si chiama Metro Web, l'altro molto internazionale, o meglio molto brasiliano, e quindi Team Brasil. Allora, per fare il punto velocemente, Telecom Italia la conoscete tutti chiaramente, capitalizza 16 miliardi e mezzo di euro e ha un giro d'affari di circa 23 miliardi di euro, ha chiuso i primi 9 mesi del 2014 con un utile di 1 miliardo e 400 milioni di euro e un indebitamento che è sceso di 800 milioni a 26 miliardi e mezzo di euro. Le attività, ecco perché parleremo di Brasile, molte volte raccontiamo quella che abbiamo chiamato la Telecom novela, usando un gioco di parole con le telenovela brasiliane, ma in Brasile Telecom, attraverso la controllata Team Brasil, ha quasi 75 milioni di utenti. Pensate che in Italia ne ha 12 milioni e 7, quasi 13 milioni di linee telefoniche fisse e 30 milioni e mezzo di utenza mobile, quindi la cifra brasiliana è una cifra imponente ed ecco perché il dossier Team Brasile è uno dei dossier principali che affronterà, scusate, il gruppo Telecom domani nel consiglio di amministrazione. I principali azionisti sono la holding Telco. Allora, Telco è formata per il 66% dal gruppo spagnolo Telefonica, poi le generali hanno il 19%, Intesa San Paolo e Mediobanca il 7,3% a testa. Poi Telco ha complessivamente il 22% di Telecom Italia. Poi dentro ci sono anche la Fidim Group di Marco Fossati che ha quasi il 5%, la People's Bank of China il 2% e la Norges Bank il 2%. Però dopo la vicenda Francia o Spagna, purché se magna come la battezzammo, che riguardava l'alleanza coi francesi per l'eventuale alleanza coi francesi per risolvere la questione Team Brasil, l'abbiamo raccontata a lungo, dicevo, dopo quella vicenda Telco è in via di scioglimento e una volta sciolta gli spagnoli avranno una quota diretta del 15% in Telecom Italia, una quota invece pari all'8,3% verrà ceduta ai francesi di Vivendi, che però hanno già comunicato di non considerare quella in Telecom come una partecipazione strategica e quindi duratura per lungo tempo, stabile per essere più precisi. Allora, ne parliamo di Telecom ma anche del paese Italia, come sempre facciamo quando intervistiamo amministratori delegati, presidenti, manager, l'abbiamo fatto anche l'altro ieri, con il presidente di Telecom Italia, Giuseppe Recchi, che ha anche la supervisione sulle strategie dallo scorso 9 maggio. Buonasera, presidente. Buonasera. Lei è stato nel passato presidente di Eni e amministratore delegato di General Electric South Europe, quindi mi interessa anche la sua punto di vista sull'Italia, su come viene vista l'Italia all'estero. Però Andiamo prima sui temi di Telecom Italia. Partiamo dalla vicenda MetroWeb. Allora, MetroWeb è una vicenda italiana. Voi volete, con l'assistenza, come advisor di Lazard, avete presentato un interesse per rilevare il 53,8% di MetroWeb, che è una società che gestisce la fibra ottica di Milano e Genova e fa capo al fondo F2I, un altro 46,2% fa capo invece alla Cassa Depositi e Prestiti. Allora, lo stesso interesse è arrivato anche da Vodafone e il presidente di Cassa Depositi e Prestiti, nonché di MetroWeb, Franco Bassanini, ha detto sarebbe il caso di fare una gara. Da quello che abbiamo capito, la vostra offerta dovrebbe essere intorno ai 200-400 milioni. Allora, lei oggi ha risposto anche su questo dicendo, ma insomma, i contrari nel PD mi sembrano solo 2 su 60 milioni? I contrari? Scusi, non ho sentito l'ultima... I commenti contrari nel PD mi sembrano solo 2 su 60 milioni? No, rispondevo a un commento su come pensavo che il sistema paese reagisse a questa ipotesi che ancora appunto non descritta. Dico, ma mi sembra molto prematuro pensare a come reagisse il sistema paese, perché i commenti ne ho visti solo due, ma penso reagisce bene, perché il problema del nostro paese oggi è sviluppare la propria infrastruttura telefonica e di connettività dati. Allora, noi abbiamo un falso mito in Italia, che è quello che si pensa che l'Italia sia molto, anzi non abbia la rete. Ecco, in realtà noi abbiamo una rete molto importante, il 98% di copertura del paese, però fino a un certo limite, che è il limite dei 7 mega, quello che in linguaggio tecnico si dice il broadband. Oggi i paesi e i consumatori soprattutto vogliono l'ultra broadband, perché siamo passati dalla voce ai dati e oggi stiamo passando a migliaia di dati che devono trasferirsi tra aziende, tra consumatori. Per cui l'ultra broadband vuol dire avere i 30 mega, avere i 100 mega, e questi sono obiettivi dell'agenda digitale su cui l'Italia è un po' indietro per una serie di ragioni storiche, ma su cui Telecom sta correndo ventre a terra. Pensi che noi siamo l'azienda che in tutti i settori investe più in Italia, investiamo 3 miliardi all'anno e l'obiettivo è chiaro: vogliamo arrivare a dare una copertura pari al 50% della popolazione entro il 2016 per quello che riguarda la fibra e l'80% della popolazione per quello che riguarda l'LTE, cioè il 4G. E questo è sul piano che abbiamo già dichiarato. Poi ci sarà il nuovo piano di quest'anno, le anticipo che gli investimenti probabilmente saranno ancora superiori. Per cui ecco, il lavoro è tanto, ma l'allineamento tra noi e il paese è totale. Ecco, sì, io avevo visto appunto un'anticipazione di un piano industriale da 9 miliardi di investimenti in 3 anni, di cui 3 miliardi e mezzo in nuove tecnologie, lei ce lo conferma, quindi mi sembra di capire. Esattamente, questo è il piano industriale 2014-2016, sì. Adesso a dicembre cominceremo a determinare gli aspetti, i dettagli del piano industriale 2015-2017. Allora, ci fermiamo un secondo, che abbiamo GR24, c'è a chi mi chiede, ma non dovete parlare di Sicilia? Sì, ne parleremo domani di Sicilia, dei musei, dei dirigenti dei musei siciliani. Però GR24, poi torniamo col presidente di Telecom Italia, che domani ha il consiglio di amministrazione, Giuseppe Recchi. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo molti messaggi anche su quanto ci ha detto poco fa il presidente di Telecom Giuseppe Recchi, che è ancora in collegamento, e faccio notare che molti ascoltatori segnalano come in realtà vi siano grossi problemi di collegamento, di copertura non posso leggerli tutti, nel territorio nazionale. Comunque restiamo sull'Italia e sulle telecomunicazioni, perché lei prima ci ha detto che una parte consistente degli investimenti previsti dal vostro piano industriale, domani, ripeto, c'è il Consiglio di Amministrazione di Telecom, circa 3 miliardi e 4, è dedicato allo sviluppo delle nuove tecnologie. Ora, all'interno di questo, cosa c'entra e per quale ragione volete MetroWeb, che è uno dei due dossier domani che affronterete assieme a Team Brasil? MetroWeb è la società, lo ricordo ancora, di F2I e Cassa Depositi e Prestiti, che gestisce la fibra ottica di Milano e Genova. Ma Metro Web è un'ipotesi, poi non le posso anticipare niente perché verrà discussa. È un'ipotesi concreta, nei dettagli, però guardi, la inquadri così, ci sono oggi i paesi devono raggiungere questi obiettivi, devono costruirsi le infrastrutture avendo dei piani industriali, come in tutti i settori, ci va il piano industriale energetico, il piano industriale dei trasporti e ci va il piano industriale dell'infrastruttura digitale. Ci si deve chiedere qual è il modo migliore per farlo il più velocemente possibile. Ecco, poi nel digitale c'è la peculiarità che la velocità assume un valore particolare, perché tutto è molto più veloce che nell'energia. Si deve favorire probabilmente il consolidamento, ma questo non è a livello solo italiano, è a livello europeo. Le do un dato impressionante e interessante per i suoi ascoltatori. Pensi che in America oggi gli operatori mobili sono solo 4, in Europa sono più di 100 e si ricorderà quando si andava in America 10 anni fa come era arretrato gli Stati Uniti rispetto all'Europa in termini di copertura, di apparecchi telefonici, sembravano dei mattoni, vero, che uno si metteva. Ecco, oggi l'America ci ha raggiunto e ci ha superato, hanno più copertura, hanno più velocità, perché hanno costruito un quadro regolatorio che favoriva la competizione sulla tecnologia. Noi oggi ci troviamo un po' nel green field, cioè dobbiamo ricostruire le nuove reti del futuro, le reti in fibra, le reti in 4G, per cui ci va un quadro regolatorio che favorisca gli investimenti, i consolidamenti, sempre in un'ottica però di massima concorrenza e di tutela dei consumatori, e per fare questo lo Stato ha lo strumento principale, che è l'emanazione delle leggi e delle regole nel suo ruolo di regolatore. Ecco, veniamo invece però al fronte anche internazionale, perché ho capito cosa dice lei, lo Stato dà le regole, il green field sarebbe la prateria su cui poi disegnare, diciamo, le regole e anche la digitalizzazione del paese. Il fronte estero però, perché allora, la vicenda Brasile, noi l'abbiamo di Team Brasil battezzata Telecom Novela, perché prima l'operazione sembrava diciamo, cercare un socio francese, era Vivendi, nell'operazione perché Telefonica in Brasile controlla, lo spiego agli ascoltatori, il vostro concorrente principale, quindi da un lato azionista di riferimento, dall'altro però è anche concorrente vostro nella telefonia mobile in Brasile. Il tentativo di arrivare a un accordo con i francesi non è andato a buon fine, anche perché poi invece che Francia o Spagna, purché diciamo, si venda, qui siamo arrivati a un accordo spagnolo-francese, e per cui alla fin fine la sensazione è stata, Presidente, che Telecom sia rimasta col cerino in mano su Team Brasil. Adesso c'è l'ipotesi della società OI, società brasiliana OI, che potrebbe fondersi con Team Brasil mantenendo il 51% della nuova società, che a quel punto sarebbe leader in Brasile sia nel fisso che nel mobile. C'è chi però non esclude nemmeno uno scenario in cui sia OI a lanciare un'offerta su Team Brasil, e bisogna capire quanto verrà valutata anche la società. E oggi sul Sole 24 Ore Marco Fossati, che è un vostro azionista, lo ricordavo prima, la Fidim di Fossati al 4,9%, ha detto no a dare deleghe in bianco ai vertici di Telecom sull'operazione, sul dossier OI. Allora, OI è un dossier aperto, e che cosa risponde intanto anche a Fossati, che dice no a deleghe in bianco, vogliamo capire quale sia il perimetro dell'operazione. Ma dunque, mi permetto di commentare sulle fiction, dubbi. No, perché le fiction, Telecom Novela, ho detto io, sì sì, è che è una fiction, ma dico, vivo questa percezione anomala verso la nostra società. Le società sono fatte di diciamo, operazioni ordinarie, crescite industriali, e quando se ne trova l'opportunità di operazioni straordinarie, ove queste opportunità fanno senso per la creazione di valore. Allora l'ha ricordato bene lei, Team Brasil è un grosso operatore, il secondo operatore mobile, quindi solo mobile in Brasile, che è il quarto mercato più importante al mondo per la telefonia, e lì la nostra, diciamo, core growth, la crescita industriale avviene attraverso gli investimenti industriali che abbiamo dichiarato. In Brasile facciamo 5 miliardi di investimenti sul piano triennale. Il concorrente che lei citava, Telefonica, poi dopo che si è comprato GVT, è il primo operatore, noi siamo il secondo, ce n'è altri due. Allora, non è non aver vinto GVT non è stata una questione che ha poi determina il nostro destino. casino. Noi continuiamo a investire e operare per quello che è la crescita ordinaria. Poi capitano occasioni, quando capitano le guardiamo. Domani parleremo di strategie in via generale, secondo poi le nostre regole, che sono regole di una società molto attenta alla creazione di valore per tutti gli azionisti. Abbiamo delle procedure speciali che proprio relative al Brasile, a tutela di qualunque tipo di conflitto, visto che lei ricordava che alcuni azionisti nostri sono poi impegnati in regime di concorrenza con noi. Allora di questo poi il mercato ci riconosce il valore, e l'azionista Findim ugualmente si è già espresso a favore delle analisi strategiche che noi facciamo, quelle che poi saranno. Poi ecco l'altro pezzo della fiction che ci tengo a ribadire, è che bisogna smettere un po' in Italia di confondere sempre il livello degli azionisti con il livello del consiglio e del manager. Gli azionisti hanno un ruolo, investono e soprattutto confermano il management se questo management fa bene alla fine del mandato che gli hanno dato. Nel frattempo il manager sono manager per tutti gli azionisti, maggioranza, minoranza, diffusi, concentrati, ma non si curano di fare gli interessi di un azionista piuttosto che di un altro, devono creare valore per la società. Se lo faranno bene la società sarà apprezzata, il titolo salirà, e questo su cui noi siamo concentrati. Ma quindi sbaglia Fossati a dire oggi su Sole 24 Ore no deleghe in bianco, cioè nella sua descrizione è il management deve avere delle deleghe e operare, poi a fine mandato venire esaminato, ho capito bene? No, lui fa un commento diverso, lui dice attenzione a come esaminate l'operazione, esaminatela con tutti i crismi di prudenza, quindi è un commento lapalissiano che fa un azionista importante, ma che fa parte della disciplina e della metodologia con cui noi del management e il consiglio nostro, che è particolarmente poi competente, perché sono tutti profili che provengono da diverse diciamo professionalità, tutte utili, poi soprattutto sono in gran parte indipendenti, sono praticamente tutti indipendenti, o poi in particolare 9 su 13 lo sono ancora di più, per cui è un consiglio che ragiona nel modo in cui le dicevo io. Quindi è un appello scontato quello di Fossati? Assolutamente. Allora... E soprattutto aggiungo, mai consiglio chiede deleghe in bianco, né le dà nessun tipo di manager. Ma secondo lei seria poi peraltro questo succede. Ma secondo lei si farà l'operazione con noi oppure no? E chi lo sa, questo che domani. Ma sarete voi a fare il 51 o loro a prendere voi in Team Brasile? Questo non glielo posso dire ovviamente, e poi non glielo so dire, c'è proprio un dibattito in corso domani, poi ma non le commento neanche sul dettaglio dell'argomento, noi domani parleremo di Brasile in generale. Vabbè, io ci ho provato, Recchi, dovevo farlo, lei ha parato il colpo, resti ancora con noi qualche minuto, perché invece vorrei capire, insomma, come sempre chiediamo agli ospiti anche un giudizio sull'Italia di adesso e su quello che le viene detto quando incontra i suoi colleghi internazionali, vista anche la sua esperienza nel passato. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Di nuovo in diretta con Sebastiano Brisoni in collegamento con Giuseppe Recchi, presidente di Telecom Italia. Vedo che stanno arrivando anche delle agenzie sulla vicenda Rai, poi magari le raccontiamo. È ovvio che insomma, il governo si sia quantomeno incavolato e di brutto. Però Recchi, adesso lei, prima di arrivare alla presidenza di Telecom, è stato presidente dell'ENI e amministratore delegato di General Electric South Europe, e quindi ha un punto di osservazione anche privilegiato per quello che riguarda l'atteggiamento dei mercati, degli investitori nei confronti dell'Italia. Allora, al di là dei luoghi comuni che leggiamo, punti di forza che le vengono fatti notare e invece criticità? Allora, il punto di forza è quello di cui noi spesso ci dimentichiamo, cioè noi siamo un paese a vocazione manifatturiera con delle competenze che ricostruirle in paesi che non le hanno e che ambiscono ad averle ci va 3-4 generazioni di imprenditori, 3-4 generazioni di capacità di costruire un sistema industriale come l'Italia ha fatto. Questo è un valore enorme che viene spesso un po' deluso da quello che è il sistema al contorno, quello che ci diciamo sempre, la burocrazia, il sistema della giustizia, eccetera, eccetera. Tutto quello che può andare sotto una fotografia di un freno a mano che blocca o rallenta la nostra macchina. Ecco, allora, dall'estero loro ci vedono come un grandissimo potenziale, vengono a investire da noi, stimano la qualità dei nostri ingegneri, della nostra capacità di produrre idee, competenze, a volte si spaventano di fronte a anomalie. Io quello che dico sempre è: se tu c'hai qualcosa di diverso dal resto del mondo, o sei il primo e allora gli altri devono copiare te, ma se non sei il primo, che è il caso nostro, forse è meglio che tu guardi come fanno gli altri. Ecco, mi dico una cosa però, Presidente Recchi, lei viene da una famiglia industriale, no? E ha fatto un'altra strada, un altro percorso, però noi riceviamo molti messaggi, mail di imprenditori o anche normali cittadini allarmati, perché dicono: stiamo svendendo il paese, cioè lo shopping cinese, indiano, dei fondi sovrani dell'Arabia Saudita e dei paesi OPEC, vengono qui, fanno shopping, prendono le piccole e medie imprese ad alto valore aggiunto che sono fornitrici o terzisti o subfornitori, meccanica ma non solo, e noi non riusciamo a porre resistenza non solo nell'acciaio, che è una sfida alta, ma nemmeno nelle centinaia di gioiellini che abbiamo, appunto citavo la meccanica industriale perché è il caso più semplice. Lei teme che vi sia un paese che sta andando in saldo per tanti motivi, perché è in crisi economica, perché le aziende non hanno capitalizzato quando potevano, perché le banche in questo momento sono ancora restie a prestare, non voglio elencare le cause, ma che si vada a uno shopping Italia on sale, in saldo? Guardi, che se le nostre aziende sono attraenti per investitori è un fattore positivo, se arrivano capitali dall'estero è un fattore positivo perché si aggiungono ai capitali o alle poche risorse che abbiamo in Italia, visto che non siamo un paese che produce miniere di minerali che rendono soldi, per cui è positivo. La cosa importante quindi non è spaventarsi che arrivino, ma è fare in modo che restino. Allora, se uno straniero compra in Italia ma mantiene l'azienda in Italia, utilizza e capitalizza sulla grande qualità della manodopera che abbiamo, sulla filiera di competenze che c'è intorno a noi, addirittura questa azienda attraverso la rete internazionale della multinazionale che viene in Italia potrebbe volare all'estero e atterrare su mercati che altrimenti da sola non si potrebbe permettere. L'importante è che uno non venga per portare via, ma non ci avrebbe nessun motivo per farlo se non le difficoltà che noi stessi gli imponiamo. Allora, quanto più questa cultura passa, quanto più una cultura pro imprenditori si diffonde in Italia, tanto meglio è. Io credo che negli ultimi 30 anni la cultura dell'imprenditore sia un po' persa, sia un po' accusato l'imprenditore o il successo in genere di essere così un contrario a quelli che sono i valori di un paese vincente. Ecco, credo che oggi ci stia rendendo conto che questo è fondamentale. E le aggiungo questo: noi come Telecom Italia quindi non solo dobbiamo occuparci di sviluppare la rete, l'ultra broadband, investire come stiamo facendo, ma dobbiamo diventare anche un benchmark per la cultura che riguarda il nostro settore, un riferimento. Dobbiamo quindi far sì che la cultura digitale si diffonda, e infatti per questo investiamo nelle scuole, nell'education, cerchiamo di formare, non solo di dare strumenti digitali ai ragazzi, che è facile, è la famosa canna da pesca negli Vangeli. Noi cerchiamo di formare invece la capacità di diventare imprenditori digitali, di formare i maestri, di parlare il linguaggio del coding, cioè di dare gli strumenti per cui attraverso il digitale si crei una nuova categoria di imprenditori che trascini tutto il paese, così come si fece negli anni 50 e questo paese divenne la settima economia del mondo. Ecco, due domande rapidissime: quando parla del ruolo degli investitori esteri, vale anche per Telecom Italia? Cioè, voi accettereste, che siete però un colosso, un socio estero? Noi siamo una public company, per cui chiunque viene benvenuto, quanto più poi aggiunge competenze, spunti e mercati, lo è ancora di più. Ma ripeto, noi separiamo il livello degli azionisti, e quello che succede in cima nella casa degli azionisti è un capitolo dalla gestione. Noi dobbiamo, chiunque venga, essere sempre al massimo dell'efficienza, sia sui mercati internazionali che sul mercato italiano, e un'efficienza anche interna. Per cui tutte le tre dimensioni delle nostre sfide oggi sono aperte e ci diamo dentro per vincerle. Allora, nel salutare l'ultima domanda, però rispetto a un anno fa, Lei, presidente di Telecom Italia Giuseppe Recchi, è più meno ottimista sul futuro di questo paese, futuro a breve, non mi interessa quello a 10 anni, non lo so, ma sul futuro a breve di questo paese, alla luce anche della congiuntura economica, più o meno ottimista? Guarda, io vedo questo governo che ce la mette tutta, e quello che dico è che noi dobbiamo fare in modo di aiutare i governi quando vengono, c'è bisogno che tutti ci crediamo, se ognuno ne toglie un pezzo, fa uno sconto di credibilità, alla fine non si riesce mai a fare strada in avanti. Allora, io credo che la crisi economica ti mette di fronte alla realtà delle scelte. Oggi le scelte, vedo delle agende importanti, ecco, noi dobbiamo fare in modo che queste agende si concretizzino, ma forse sempre di più si va avanti, meno abbiamo alternative, meno abbiamo alternative, più forse le cose si concretizzano. Allora, alla fine, quanti anni ha lei, Recchi? Ne ho 50 appena fatti. Ha figli? Ne ho 3. Quindi il futuro le interessa? Sì, mi interessa molto, e soprattutto è un futuro che, per quello oggi l'educazione è così importante, perché oggi per via del digitale noi dobbiamo costruire le professioni che tra 5 e 6 anni saranno richieste dal mercato, e su questo noi dobbiamo investire molto, perché se la scuola ad oggi non prepara i nostri ragazzi a quella che sarà la domanda di lavoro che loro incontreranno, ne faremo dei perdenti, e il resto del mondo corre veloce, per cui noi dobbiamo assolutamente raggiungerlo e dotarci di tutti i programmi che servono per mettere i nostri ragazzi all'altezza di competere. Torneremo anche sul tema della digitalizzazione delle nostre scuole, perché sennò poi tutti questi restano ragionamenti, diciamo, giusti, ma poi che non trovano la loro concretezza se anche il mondo dell'istruzione non si proietta lì. Comunque, grazie, a me interessano i dossier aperti che affronterete domani in primo luogo. Grazie al presidente di Telecom Italia, Giuseppe Recchi. Grazie a voi. Il sogno di oggi ve lo raccontiamo domani, non è un gioco di parole, perché non ho dimenticato la promessa fatta sulla Sicilia, i 300 di Rigei nei musei, ma non ci sono i soldi per lampadine. Chissà se anche lo sciopero del 1° dicembre si occuperà di questo, o i 66 funzionari incaricati, ahimè sempre in Sicilia, di conservare la memoria di Luigi Pirandello, dove si trova la casa natale dello scrittore, trasformata in un museo, in una biblioteca. Ben 15 su 66 fanno da custodi alla casa museo. Ma, no, ma manco fosse blindata, devo stare attento a quest'ora. E poi le spese delle procure per le intercettazioni. Non che uno vada a contestare le intercettazioni, ci mancherebbe, però anche lì si può fare un calcolo economico in base a quante persone intercetti e quanto spendi, e scopriremo cose stranissime, che a Roma si intercetta di più che a Catania ma si spende la metà. Misteri delle intercettazioni. Una notizia ultima ve la devo dare, invece sembra dalle ultime agenzie che l'esame e il giudizio definitivo sulla manovra italiana da Bruxelles arriverà non più lunedì ma martedì. Aspetteremo un giorno in più. Invece domani alle 17 torna Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni intanto l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente. Swissquote.it, un leader globale nel trading sul Forex, vi ha presentato Focus Economia.